Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata, benvenuti a tutti a Salvadanaio da Deborah Rosciani. Un Salvadanaio che oggi ritorna su un tema che abbiamo affrontato anche con diverse puntate, molti di voi lo ricorderanno senz'altro, addirittura nella primavera del 2010. Si tratta della questione delle polizze dormienti, la cui liquidazione, se non reclamata da un beneficiario entro un certo lasso di tempo dalla morte della persona assicurata, viene devoluta dalla compagnia ad un fondo, quello costituito per le vittime dei crack finanziari, è proprio un fondo dedicato all'indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie, per l'appunto i crack Parmalat, Argentina e quant'altro, istituito da una legge del 2005. Allora, è una questione che negli anni passati è stata al centro di non poche campagne e manifestazioni, ma che torna al centro dell'attenzione, perché centinaia di beneficiari di polizze del gruppo Poste Vita, il gruppo assicurativo legato appunto alle Poste Italiane, stanno lamentando la mancata liquidazione di somme da parte della compagnia stessa nel caso in cui siano trascorsi più di 2 anni dal decesso del congiunto assicurato. Se da un lato questo termine di prescrizione è stato fissato a 2 anni proprio da una norma di legge, dall'altro, in una clausola dei contratti di polizza, Poste Vita avrebbe rinunciato a far valere la prescrizione fino a 10 anni dalla data appunto della morte, anche se poi Poste, lo sentiremo tra poco, ha precisato che questa deroga non riguarderebbe tutti i contratti. In ogni caso, i clienti e l'associazione Movimento dei Consumatori, molto attiva su questa vicenda, lamentano anche le insufficienti comunicazioni da parte della compagnia, per cui tutto questo ci ha portato di nuovo a riportare all'attenzione generale questo argomento. Stamattina ricostruiamo intanto la vicenda, ricostruiamo quello che accadde nella primavera del 2010, quando appunto dedicammo tante trasmissioni a questo tema, polizze dormienti ma anche conti correnti dormienti. Risponderemo alle vostre domande, 800 24 00 24, il numero verde al quale ci potete chiamare. Peraltro affronteremo anche quella che potrebbe essere una novità in arrivo tra qualche giorno, perché il secondo decreto sviluppo, approvato giovedì scorso dal Consiglio dei Ministri, avrebbe riportato da 2 a 10 anni, quindi dal punto di vista legislativo con dei termini molto rigorosi, il termine di prescrizione delle polizze vita dormienti, ridotto appunto qualche tempo fa a soli 2 anni, termine che però, secondo le indicazioni del governo, si sarebbe rivelato del tutto insufficiente al fine di garantire la possibilità di riscatto della polizza, circostanza appunto questa novità che chiaramente torna ad ingarbugliare un po' nelle carte per tutti quanti. Allora, se volete intervenire su questo argomento, vi ho già dato il numero verde, lo ricordate bene, potete anche utilizzare gli altri canali per interagire con noi, 349 238 6666 per scriverci dei messaggi. In alternativa, scusate, oggi il mal di gola ritorna ad impossessarsi di me, potete anche scriverci a salvadanaio@radio24.it o potete andare anche a scriverci su Facebook salvadanaio-radio24 e chiaramente siamo anche su Twitter @salvadanaio24, è il nostro indirizzo di questo secondo veicolo appunto per comunicare con noi. Rapidamente la borsa altalenante, come l'abbiamo definita con Anna Rita D'Ambrosio nel corso del giornale radio, perché effettivamente ieri è stata una giornata ancora negativa. Stamattina le borse erano partite bene, poi hanno azzerato tutti quanti i guadagni, adesso si ritorna di nuovo con il segno più, almeno su alcune piazze, in particolar modo su Milano che segna più 0,15% e su Parigi più 0,19%, mentre rimangono ancora negative le contrattazioni a Francoforte, a Londra e a Madrid. L'euro sul dollaro a 1,2935. I migliori titoli di Piazza Affari: STM più 4,67%, Ansaldo più 1,71%, Azimut più 1,65%, in rialzo di un punto anche Mediaset, Autogrill ed Eni, mentre in ribasso di 1,5% segnaliamo Telecom Italia, Banco Popolare meno 1,29%, Prismian meno 1%, Terna e Tenaris meno 0,8%. Tra l'altro, cosa che non faccio quasi mai, mi sono dimenticata di anticiparvi e presentarvi gli ospiti che saranno con noi questa mattina. L'avvocato Marco Gagliardi, legale del Movimento Consumatori, che saluta. Avvocato, buongiorno e ben ritrovato. buongiorno a tutti, grazie di averci invitato. La prossima volta, la volta precedente che era stato con noi era stato in tema di saldi, ci eravamo forse divertiti un po' di più, oggi ritorniamo su un tema complesso, almeno nelle modalità con cui la legislazione è intervenuta a disciplinarlo negli ultimi anni, però è molto importante perché ci sono molti sottoscrittori di questi prodotti, molti risparmiatori che cercano anche questi prodotti di investimento perché li ritengono sicuri, delle piccole cassaforti, e poi nel momento in cui invece si trovano a riscattarle hanno qualche complicazione, soprattutto se devono naturalmente riscattare le polizze di congiunti defunti, e questo già ovviamente per natura complica tutte le cose. Per cui quello che sta succedendo anche a Poste Vita ce lo racconterà il dottor Claudio Raimondi, responsabile marketing e supporto commerciale di questa società. Dottor Raimondi, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno a voi. Allora, la borsa l'ho raccontata, ho già anticipato il tema di cui parleremo, ma il nostro Marco Lombardo come sempre ha preparato una scheda che riassume un po' i termini della questione, così rinfreschiamo la memoria agli ascoltatori, soprattutto a coloro che stanno vivendo in questo momento questo problema, e poi potranno naturalmente anche telefonarci. Intanto sentiamo la nostra scheda. Una persona stipula un'assicurazione sulla propria vita. Ne paga il premio per anni, ma dopo il suo decesso nessun figlio, parente o congiunto ne richiede immediatamente la liquidazione. Sono queste le cosiddette polizze dormienti, somme che, se non reclamate da un beneficiario entro un certo lasso di tempo dalla morte della persona, devono essere devolute dalla compagnia a un fondo dedicato all'indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie, istituito da una legge del 2005. Un'altra legge, nel 2008, ha introdotto una prescrizione biennale in questi casi. Precedentemente era di un anno, ma ha anche previsto un effetto retroattivo al 1 gennaio 2006. Di conseguenza, molti risparmiatori, in particolare gli eredi di possessori di polizze deceduti tra il 2005 e il 2008, si erano trovati nella condizione di non poter incassare le somme perché prescritte e devolute al fondo. Ed erano state molte le manifestazioni e gli appelli rivolti all'allora ministro Tremonti. Attualmente i riflettori sono puntati in particolare sulle polizze di Poste Vita, il gruppo assicurativo che fa capo a Poste Italiane. A confondere ulteriormente le acque ci sarebbero una clausola contenuta nelle condizioni di polizza, secondo cui Poste Vita avrebbe rinunciato a far valere la prescrizione fino a 10 anni dalla data della morte dell'assicurato, e anche indicazioni errate che molti clienti avrebbero ricevuto agli sportelli degli uffici postali. Il risultato? Centinaia di beneficiari, allo scadere della polizza, hanno richiesto la liquidazione della somma e hanno ricevuto un secco rifiuto. Le associazioni dei consumatori, però, puntano il dito verso gli errori di comunicazione di Poste Vita nei confronti dei clienti. E anche l'antitrust ha preso posizione, recependo precisi impegni da parte della compagnia. Ma come deve comportarsi un cliente che si trova oggi in questa situazione? Potrà davvero ottenere qualcosa? O ha ormai perso la sua somma? Ancora oggi Poste Vita è tenuta a considerare attentamente ogni richiesta di liquidazione, affermano dal Movimento Consumatori, in prima linea in questa vicenda all'italiana che non si può ancora considerare chiusa. No, anche perché dobbiamo riconoscerlo a tutti gli attori in gioco, spesso e volentieri quando si legifera e si tenta di gestire al meglio anche queste situazioni, si legifera in fretta, visto che poi tra l'altro da anni stiamo viaggiando su legislazione d'emergenza per affrontare la crisi economica, quando si emenda lo si fa ancor peggio, e quindi poi ci vanno di mezzo i consumatori che devono gestire in via individuale queste spiacevoli situazioni. Allora, volevo ricostruire un po' tutto l'accaduto con intanto l'associazione dei consumatori, poi naturalmente sentiremo Poste Vita come sta anche a parte recependo la novità che sta arrivando col secondo decreto sviluppo appunto approvato dal Consiglio dei Ministri giovedì scorso, ma cercheremo soprattutto di capire se è vero che in questo momento non stanno liquidando le polizze appunto di congiunti di defunti che legittimamente chiedono la liquidazione di questi prodotti di investimento, ma essendo caduti in prescrizione non hanno più diritto per farlo. Intanto, avvocato Gagliardi, ci spiega un po' nel dettaglio che tipo di segnalazioni vi stanno arrivando al Movimento dei Consumatori, perché avete ritenuto opportuno riesumare anche questa vicenda che noi pensavamo si fosse conclusa nel 2010 per l'appunto. Sì, allora la vicenda non è da riesumare perché non è morta, continuano ad arrivare segnalazioni di polizze non liquidate da Poste Vita perché queste polizze stanno arrivando a scadenza, quindi quelle che erano rimaste diciamo nel cassetto ma non propriamente, che comunque non erano state liquidate entro il primo anno, il secondo anno della morte del defunto. Oggi vengono richieste, ne viene richiesta la liquidazione perché anche in presenza di quella clausola che prevedeva una rinuncia di poste vita a far valere la prescrizione fino al termine di 10 anni, i titolari, cioè i beneficiari, credono di avere ancora diritto ad averne il pagamento. Quindi noi adesso ci troviamo in una situazione in cui abbiamo bisogno di risposte da Poste Vita, che secondo noi è anche una vittima di queste vicissitudini, di questa storia barzelletta all'italiana, perché il fondo appunto era stato creato per socializzare le perdite delle vittime dei crack Cirio, Parmalat e Argentina, ma questi ultimi non hanno ricevuto un bel niente, ecco. E nella trappola nel frattempo ci sono finiti altri risparmiatori innocenti, che appunto erano coloro che hanno investito nelle polizze di vita. Quindi quello che ci interessa sapere adesso è se Poste Vita, se effettivamente verrà modificato, come sappiamo, il termine di prescrizione da 2 a 10 anni, riprenderà in considerazione le richieste, così come secondo noi dovrà fare, e indennizzerà, cioè rimborserà anche coloro per cui potrebbe essere eccepita la prescrizione secondo la vecchia normativa. Certo, avvocato Gagliardi, mi scusi, poi chiaramente vado a Poste Vita. Questa situazione si sta verificando solamente con le polizze intermediate e vendute da Poste Italiane o anche per quello che riguarda le polizze di compagnie assicurative? I termini di prescrizione valgono nello stesso identico modo oppure c'è una gestione differente? Perché sono solo quelle di Poste Vita in questo momento ad essere in quest'onda problematica sostanzialmente? Ma non sono solo quelle di Poste Vita, la stessa situazione sia per tutte le altre polizze che sono state destinate a questo fondo. Probabilmente semplicemente per Poste Vita se ne è parlato di più, nel senso che poi c'è stato anche un procedimento dell'antitrust che si è chiuso all'inizio dell'anno scorso. Poste Vita aveva assunto degli impegni, poi a livello numerico è probabile che siano state vendute a più clienti. Quindi diciamo che lei ritiene che possa essere in questo momento una questione fisiologicamente più rilevante, proprio perché i numeri sono più importanti, ci sono più polizze di questo tipo intermediate da Poste Vita, ma questo non credo, perché insomma anche primarie compagnie di assicurazione non credo che non divulghino questi prodotti, quindi bisognerà vedere appunto se è un caso che tutte queste sono transitate all'Associazione dei Consumatori, se c'è stato un passaparola o se appunto i numeri effettivamente impongono di portare all'attenzione generale di nuovo questo tema. Ma dottor Raimondi, lei che cosa può dirci intanto a questo proposito? Io non credo che il Movimento Consumatori, poi l'avvocato Gagliardi ce l'ha fatto anche capire, vi ritiene addirittura vittime voi stesse di questa situazione legislativa un po' confusa, ma quanti casi, se avete fatto un monitoraggio, vi risultano appunto di questo tipo? Quanti clienti non riuscite ad accontentare di quelli che vi chiedono il riscatto, se vengono a chiedervi il riscatto di una polizza di un defunto, di un congiunto defunto? Guardi, sicuramente quello che dice il dottor Gagliardi, no? I due aspetti fondamentali. Primo, le compagnie, così come le Poste Vita, così come tutte le altre, si trovano nella stessa medesima situazione, ma tutte le compagnie sono un po', mi lasci passare il termine, ha usato lui, vittime del meccanismo. Perché lei immagini che dal punto di vista pratico la compagnia effettua effettivamente una liquidazione. Allora può immaginarsi come sia, anche dal punto di vista proprio di un concetto utilitaristico del termine, molto più logico pagare un legittimo beneficiario piuttosto che dare i soldi ad un fondo. Però Poste Vita, che queste cose qui di fatto ha sempre seguito, cioè noi nel passato abbiamo sempre pagato i beneficiari senza, quando potevamo farlo, senza fare mai eccepire la prescrizione, quindi noi nei nostri bilanci degli ultimi 12 anni non c'è un euro che è rimasto nelle nostre tasche che era invece di diritto dei eventuali beneficiari. A un certo punto è intervenuta la legge e noi la legge non possiamo fare altro che adempiere a una legge. Parla della famosa 166 che ha introdotto. La 166 che peraltro diciamo che noi abbiamo lavorato anche molto a livello di comunicazione istituzionale per far capire che la retroattività non era una cosa da percorrere, per cui è stata anche modificata questa legge. Poi nel 2010 fu fatto una sorta di bonifica di quello che era la situazione del passato, e lì effettivamente ci fu una grande battaglia in quel momento che vi ha visto insieme anche alle associazioni dei consumatori, diciamo, noi ovviamente abbiamo ragionato non tanto a livello di correttezza della legge, perché la legge dal punto di vista concettuale è estremamente corretta, perché questi soldi non reclamati è giusto che vadano a fondi di solidarietà. Il tema della modalità con cui questi soldi non venivano reclamati e quindi dovevano andare al fondo era quello da correggere. Sì. Ed era un po' ed è il punto oggi rimasto in sospeso anche dopo il nuovo decreto, perché il nuovo decreto sicuramente sana i problemi futuri, cioè laddove ci sarà un assicurato che anche a distanza di anni, come accade nella pratica, un beneficiario scopre che una polizza è fatta dal proprio congiunto, magari la scopre casualmente in un cassetto e quindi chiede soldi, Poste Vita farà come nel passato, sarà libera di poterglieli dare, cosa che ha sempre fatto. La legge invece questa libertà ce l'ha negata e ci ha costretto a dare questi soldi al MEF, secondo le regole appunto stabilite. Quanti soldi avete intanto sono transitati al MEF, al Ministero dell'Economia e delle Finanze? Sì. Sì, ma anche per rispondere al tema iniziale, noi abbiamo preso, tra l'altro, essendo stati sempre molto consumeristici nel nostro approccio, noi crediamo in un certo tipo di assicurazione, quindi noi abbiamo adempiuto alla legge sicuramente, però abbiamo addirittura dato, la legge stabiliva da 1 a 2 anni la prescrizione, noi praticamente è come se avessimo aumentato di un ulteriore anno, il terzo anno, cioè nei famosi discorsi che si è fatto prima con Agicom, noi ci siamo presi degli impegni specifici che abbiamo sempre adempiuto, a cui abbiamo adempiuto totalmente, addirittura di portare fino all'autunno del 2011 il termine di prescrizione, che invece sarebbe scaduto all'autunno del 2010, quindi per dare un ulteriore anno. Che cosa abbiamo fatto in questo anno? Abbiamo comunicato, come credo non abbia fatto nessuno, siamo l'unica compagnia che ha preferito non fare pubblicità sui giornali dei propri prodotti, ma fare una pubblicità che diceva in buona sostanza, a tutti i possessori di polizze vita ricordava il termine della prescrizione, proprio perché lo ritenevamo un valore di natura sociale e la nostra comunicazione. Certo, dottor Raimondi, mi devo fermare perché ho la prima pausa pubblicitaria. Capisco sollevare l'attenzione sulla questione della prescrizione, però magari per profili di risparmiatori molto modesti, magari comunque mettere l'occhio, se si apre un giornale su annunci di questo tipo, magari uno non ci pensa che possa essere anche un annuncio, una comunicazione che riguarda la propria situazione, per cui è chiaro che qua la comunicazione dovrebbe avvenire in maniera diversa, più diretta. Mi rendo anche conto, poi questo ce lo spiegherà perché me l'ha detto chiaramente prima, quando ci siamo sentiti prima della trasmissione, che non esiste un elenco beneficiari per i defunti, qui ci sono i testamenti che disciplinano le singole situazioni, per cui è chiaro che la situazione si complica ulteriormente. Oggi parliamo di polizze vita, ma di quelle il cui riscatto risulta un po' problematico. Perché? Perché ci sono alcuni prodotti che sono stati distribuiti in questi anni da diversi canali di intermediari finanziari, noi oggi ci soffermiamo sulla situazione di Poste Vita, che sono state al centro di molti interventi di natura legislativa. Nel 2008 c'è stata l'introduzione di una legge, la 166, che ha introdotto la prescrizione biennale per le polizze vita, nel senso che se queste polizze scadono e non c'è nessuna persona che le rivendica, magari perché sono intestate a defunti naturalmente, allora entro 2 anni, se non le rivendica nessuno, queste scadono. Allora Poste Italiane in particolar modo che cosa fa? Ma dovrebbero farlo anche gli altri intermediari. Praticamente queste somme le girano sul cosiddetto fondo per le vittime dei crack finanziari. Peraltro quella legge introdusse anche un effetto retrattivo al 1 gennaio 2006, che poi per una battaglia delle associazioni dei consumatori fu cancellato. Oggi ne riparliamo, intanto perché il secondo decreto sviluppo approvato dal Consiglio dei Ministri giovedì scorso ha riportato da 2 a 10 anni il termine di prescrizione delle polizze vita dormienti, che appunto nel 2008 era stato ridotto a 2 anni, un termine che secondo le indicazioni del governo si è rivelato insufficiente a garantire la possibilità di un riscatto della polizza. Ma di fatto però questo regime regime legislativo transitorio c'è stato, e sta capitando che molte persone che stanno andando a rivendicare appunto cifre su queste polizze non vengono messe nelle condizioni di poter riscattare questi soldi, perché appunto sono decaduti i termini, perché c'è stata la prescrizione, e molti consumatori stanno sollevando soprattutto una questione che si sta verificando in Poste Vita, sulla quale ha acceso un faro il movimento consumatori. Avvocato Gagliardi, ho ricostruito più o meno bene la situazione? Sì, benissimo. Ecco. Mi desta stupore quanto riferito da Poste Vita, perché la nuova prescrizione è stata introdotta, leggo la bozza del decreto legge, al fine di superare possibili disparità di trattamento tra i consumatori nel settore delle polizze vita, cioè proprio per evitare un trattamento diverso tra chi è riuscito, grazie anche a queste pezze messe dal legislatore, ad ottenere il rimborso anche di polizze prescritte, e chi non è riuscito e aveva lo stesso contratto. Per cui noi auspichiamo che Poste Vita non consideri che questa norma si applichi soltanto per il futuro, ma anche per il passato, che quindi non vada a eccepire la prescrizione. Io credo che lo auspichi anche Poste Vita. Il tema è che forse vogliono un'indicazione legislativa molto chiara anche su questo aspetto. Vado subito da Raimondi. Assolutamente sì, è così. Nel senso che noi possiamo essere d'accordo su tutti, come abbiamo sempre fatto nel passato, ci piacerebbe pagare sempre tutti i legittimi beneficiari. Esiste una legge che stabilisce alcune regole, noi quella peraltro l'abbiamo interpretata ulteriormente, come dicevo prima, e in modo ancora più ampio, quindi noi ci abbiamo cominciato a recepire le prime prescrizioni a partire dall'inizio del 2011, cioè quindi oltre un anno dopo il dovuto, però purtroppo noi abbiamo un obbligo, peraltro i soldi già dati al MEF non è che quelli stanno più nelle nostre disponibilità. Ecco, tra l'altro, infatti, per chi è titolare di conti correnti dormienti e magari si è dimenticato di avere un rapporto di un conto e questi soldi sono transitati appunto sul fondo delle vittime finanziarie, al MEF posso farne richiesta, hanno 10 anni di tempo appunto per la restituzione di queste somme. Chi invece era titolare di una polizza vita e ha il prodotto è caduto in prescrizione, non si ha più quindi la titolarità diretta dello strumento di investimento e la somma è già transitata al MEF, per le polizze c'è una disciplina diversa, vero Raimondi? Non si può fare la richiesta. In realtà non c'è proprio una disciplina, nel senso che non sono state mai nominate. Di fatto probabilmente è stato un po' quello il problema, perché qualora una persona scoprisse dopo il passato di 2 anni di avere diritto a quei soldi, anziché rivolgersi a Poste Vita, che Poste Vita ha soltanto adempiuto a una legge e quindi l'ha indirizzati a Consap, che gestisce appunto questo fondo, e poteva, così come nei conti dormienti, dei conti correnti bancari, avrebbe potuto fare richiesta a Consap. E nel caso specifico questo non è previsto, questo è un problema che speriamo, soprattutto che pure venga, come cittadino italiano, speriamo che venga risolto, perché altrimenti si crea quella famosa disparità di trattamenti di cui parlava l'avvocato Gagliardi poco fa. Tra l'altro, sì. No, senta Raimondi, no, un'altra cosa, perché io sto continuando a citare polizze che sono teoricamente, secondo la mia interpretazione, inizialmente sottoscritte da persone che poi sono defunte, quindi nella impossibilità di riscattare ci sono eventualmente gli eredi, ma non è detto, possono essere anche polizze sottoscritte il cui titolare sia ancora in vita ma che si è dimenticato di averla sottoscritta, quindi ha fatto decadere i termini di prescrizione. Su questo aspetto, ecco, vorrei specificare che Poste Vita non è che si è limitata a fare degli annunci sui giornali. Poste Vita ha fatto una comunicazione uno a uno, ad persona, ma lei consegue, noi abbiamo oltre quasi 5 milioni di clienti, e anche mandare soltanto una lettera è un costo, ma che Poste Vita ha affrontato, perché si rendeva conto che questa modifica legislativa poteva portare problemi. E quindi le comunicazioni ci sono state sia nei confronti di singole persone sia all'interno degli uffici postali. Quindi, dopodiché, per quanto riguarda le scadenze, arrivo subito alla sua domanda, le persone vengono informate 6 mesi prima della scadenza, poi 3 mesi prima della scadenza, vengono avvicinate agli uffici postali, anche commercialmente ovviamente, quindi tutto questo tema è abbastanza noto. Per quelle persone che nel frattempo non sono proprio apparse e tutto, Poste Vita fa un recall di invii di comunicazione, ovviamente ha un indirizzo che è quello che rimane nei nostri archivi. Ora non è da escludersi che qualcuno può lasciar trascorrere anche questi 2 anni nonostante che sia in vita, ma su questo noi non ci possiamo fare nulla, non siamo obbligati a passare. Benissimo, tutto questo è chiaro e su questo siamo d'accordo, però l'associazione dei consumatori, adesso lo faccio raccontare a Gagliardi, solleva un altro problema, ed è quello relativo a quelle persone che invece sono state consigliate allo sportello di non liquidare la polizza e mantenendola lì, magari senza far transitare la cifra maturata nel frattempo su un altro strumento di investimento che avrebbe mantenuto invece la sua salute, quindi si sarebbe mantenuto in vita, avvocato Gagliardi, perché poi il tema è un po' questo, non tanto chi si dimentica di aver sottoscritto, ma chi invece se lo ricorda, chi legge le lettere che la posta invia, che le poste inviano, che Poste Vita invia, poi va allo sportello, chiede di liquidare la polizza, e allo sportello gli dicono ma no, non farlo, tieni lì questi soldi, che cosa te li porti a casa a fare, e però non gli dice che magari se non lo fa in 2 anni, no? Il tema è un po' questo. Sì. Sì, anche in questo caso, come quando parlavamo di negoziazione di strumenti finanziari anche più complessi, esiste un rapporto di fiducia allo sportello, per cui il cliente delle poste ha fatto affidamento a quello che è stato detto magari in buona fede sulla base di prassi consolidate negli anni anche prima che ci fosse questa modifica peggiorativa, diciamo, a sfavore delle poste. Però io tornerei anche un attimo sul discorso della comunicazione ad personam. Allora, questo è un impegno che è stato assunto davanti all'antitrust, però chiederei a Poste Vita come è stata fatta la comunicazione ad personam in caso di polizze in cui non venivano identificati i beneficiari, cioè, mi spiego, quando nella polizza veniva designato come beneficiario l'erede o gli eredi, come hanno fatto questi soggetti a sapere e Poste Vita d'altro canto ad adempiere gli impegni antitrust? Raimondi. Rispondo immediatamente. Certo, infatti. Chiaramente Poste Vita, se noi avessimo avuto il sentore che un erede era un beneficiario, la polizza tecnicamente si doveva interrompere, quindi saremmo immediatamente andati al processo di liquidazione. Il tema della nostra comunicazione e l'impegno preso è stato quello di informare tutti i contraenti, che noi presumevamo essere tutti vivi, perché altrimenti avevamo dovuto avere delle richieste di liquidazione. Quindi noi abbiamo inviato a tutti i contraenti in portafoglio in più di una ripresa, perché io sto parlando di interventi massivi, ma poi ogni mese in occasione degli estratti conti mensili vengono fatti effettuate queste comunicazioni, dove la parte prescrizione è proprio in netto e sottolineato, proprio vista l'importanza di questa legge sulle economie della famiglia. Quindi noi abbiamo fatto tutta questa comunicazione a tutti coloro che erano i possessori delle polizze. Tra questi probabilmente ci sarà stato già qualcuno che era deceduto, e quando questa cosa che dice è stato consigliato, probabilmente è vero, ma questo si riferiva prima del 2008, quando era possibilità, e tant'è che Poste Vita, come dicevo all'inizio, non ha mai eccepito questo discorso della prescrizione, e tant'è che questo atteggiamento virtuoso di Poste Vita, guarda caso, è stato ripreso proprio nel decreto famoso che posta a 10 anni addirittura il concetto di prescrizione, proprio perché per la salvaguardia è una tutela di lungo periodo nei confronti dei clienti. Quindi prima accadeva questo fatto, da quel momento in poi è stata fatta una campagna. Agli sportelli siete stati assolutamente rigorosi, non dite più niente, liquidate. Sui giornali, nella formazione, nelle comunicazioni qualsiasi, anche se ti ricordo che è uscito un nuovo prodotto, sul sito, da tutte le parti, abbiamo addirittura preso un anno in più sul normale periodo di prescrizione che era 2 anni. Però a qualcuno evidentemente è stato difficile e impossibile. Sì, ci continua a star dentro, e a noi, continuo a dire, riprendo il discorso iniziale, questa è una cosa che per noi siamo veramente partiti. Insomma, in ogni caso adesso si è aperta questa ulteriore finestra legislativa che, incompleta, malfatta come al solito, però comunque un'ulteriore opportunità la apre, se fosse scritta meglio, oltre alla riapertura dei termini di prescrizione a 2 a 10 anni. Sarebbe bene appunto che questo provvedimento definisse con grande precisione se Poste Vita possono intervenire anche concedendo il riscatto delle polizze già prescritte a coloro che sono rimaste invece incagliate, le persone che sono rimaste incagliate in virtù della norma vecchia, quella del 2008. Allora andiamo subito a sentire Marco da Milano, 800 24 00 24, per commentare, se vorrete, insieme a noi il tema di oggi, le polizze dormienti. Vi ricordate, se siete titolari, se avete sottoscritto in passato delle polizze Vita e magari queste polizze è giunta l'ora di riscattarle? Fate attenzione, perché fino a poco tempo fa avevate 2 anni di tempo per farlo. Adesso questo termine potrebbe di nuovo cambiare, ma se questo termine fosse stato nel frattempo superato, Poste Vita negli ultimi mesi ha dovuto negare a un po' di sottoscrittori appunto la possibilità di riscatto. Vedremo se questa situazione con il nuovo provvedimento del secondo decreto sviluppo potrà sanarsi. Intanto sentiamo Marco da Milano. Marco, eccoci qua, buongiorno, mi scusi se l'abbiamo fatto aspettare un po', salve. Niente, io la mia domanda era questa. Al di là del fatto che non ho capito bene il meccanismo della prescrizione, poiché voglio dire, nel momento in cui una polizza scade, non vedo il motivo per cui non debba essere automaticamente liquidata. Vabbè, ma se nessuno la va a rivendicare, se nessuno si fa sentire, magari non esiste appunto per quello, magari c'è un meccanismo per il quale, non so, con una banca d'appoggio o tramite dei bonifici fatti sempre dallo stesso conto, perché finché io ti pago il premio della rata della polizza, è chiaro che io ci sono. Di conseguenza, nel momento in cui scade la rata e va a buon fine, diciamo, il termine, perché tua assicurazione non me la paghi automaticamente? Perché e bisogna automaticamente, mi scusi se interrompo. No, nel senso, le immagini che il titolare appunto di questa polizza sia defunto nel frattempo, non c'è l'automatismo sempre di transito della liquidazione appunto di una polizza su un conto corrente d'appoggio, per cui bisognerebbe magari riorganizzare tutto insieme, ma poi ci facciamo rispondere dagli esperti, Marco. Quindi? Comunque poi è lo stesso meccanismo legato al discorso degli eredi, cioè io il momento in cui la polizza è chiaro che non viene più pagato il premio, è chiaro che lì a quel punto c'è un meccanismo che si interrompe, perché o il beneficiario non la paga più e di conseguenza poi tutti i soldi versati rimangono lì. Ma momenti in cui potrebbe essere stata anche come dire sottoscritta con un versamento in unica soluzione 10 anni fa, Marco, quindi non è detto che abbia un piano di alimentazione costante come un PAC, come un fondo di investimento. Certo, ma allora in quel punto, cioè, proprio a quel punto, a tutela dei soldi versati, che poi non mi sembra corretto che poi vengano versati o comunque rimangano l'assicurazione o comunque vengano versati in questi fondi alle quali vengono versati dopo. Certo, comunque Marco, lei molto saggiamente suggerisce un metodo di liquidazione più semplice, tanto difficile organizzarlo. Sentiamo cosa ci dice Raimondi di Poste Italiane. Allora, per ogni polizza c'è anche un conto corrente ipotetico d'appoggio del contraente, Raimondi? Diciamo che per quanto ci riguarda normalmente sì, ma il tema non è questo, il tema è nel caso specifico di un decesso. Ci sono dei beneficiari che possono essere persone terze, noi non sappiamo neanche, lei immagini la generica definizione di eredi legittimi, figli nati o nascituri o cose di questo genere. Ora, non è che Poste Vita interpreta le cose in questo modo, no, è proprio il codice civile che interpreta le cose in questo modo. Noi effettuiamo il pagamento non appena l'avente diritto ci manifesta che si rappresenta, entro 30 giorni da questa richiesta viene fatto la liquidazione. Non può essere automatica, andremo contro le leggi e soprattutto contro un contratto che lega due soggetti. Quindi non può esserci l'automatismo, come Marco suggerisce. Questo automatismo può essere messo su cose di natura finanziaria, faccio finta un conto corrente bancario, una persona decede, quello va automaticamente nell'asse ereditario. Una polizza di assicurazione prevede delle figure che sono quello che paga, la testa dove la persona sulla quale si fa l'assicurazione sia appunto assicurato, e poi la figura del beneficiario è quello che deve prendere i soldi, e la compagnia non può, in assenza di informazioni, decidere a chi mandare questi soldi, perché non è proprio tecnicamente possibile. Allora, abbiamo capito. Ci sono anche altre situazioni che ci stanno segnalando alcuni ascoltatori. Le leggo la mail di Andrea, che ci dice che la polizza in questione, sottoscritta presso Poste Vita, era stata sottoscritta da una parente con suo padre, il papà di questo ascoltatore, come beneficiario. Sono deceduti entrambi, ma mio padre dice aveva fatto in tempo a chiedere la liquidazione, per cui i termini di prescrizione erano stati evidentemente interrotti. L'assegno a mio padre era stato rimandato indietro dall'ufficio postale e in teoria mia madre e io come eredi saremmo i beneficiari. Saremmo perché Poste risponde solo tramite un call center e non sono con noi in genere molto cortesi e chiari, ci racconta Andrea. Non è neppure possibile avere una risposta per mail o posta, appunto per sapere con certezza quando i nuovi assegni saranno emessi. Allora, quindi, visto che è ancora una situazione totalmente aperta, Andrea, magari cercheremo di capire le motivazioni per cui, essendoci anche questo giro di eredi, ancora la situazione non si sblocca. Adesso darle così una risposta all'impronta Raimondi. Se il papà ha fatto in tempo a interrompere la prescrizione, ovviamente il papà era il beneficiario di queste cifre e quindi dovevano andare a lui, visto che il papà non c'è più. e i beneficiari sono gli eredi legittimi del papà, e quindi mi sembra di aver capito moglie e Andrea, appunto, che è il figlio. Sì. E questi soldi devono andare a lui. È chiaro che Poste nel frattempo, di fronte a quella richiesta, aveva già emesso degli assegni che sono stati spediti a un indirizzo che poi sono dovuti tornare indietro, quindi si tratta soltanto di gestire i tempi di questa liquidazione. Ora, che poi da noi non ci si riesce a raggiungere, credo che non sia così. Se vuole, il mio nominativo è pubblico. Benissimo, è cosa, può chiamarci. Andrea, ci scriva qualche dettaglio in più anche quando c'è stato tutto questo traffico, diciamo, di assegni che sono ritornati indietro, perché se è una questione che è successa la settimana scorsa, magari nei tempi ci stiamo. Se tutto quanto è accaduto 6 mesi fa, non ci stiamo più. 10 secondi di tempo all'avvocato Gagliardi per concludere, perché poi dobbiamo salutarci. Sì, solo uno spunto. Il provvedimento antitrust lasciava aperta la valutazione caso per caso, cioè un obbligo di Poste Vita di valutare caso per caso se ricorrevo dei presupposti. Poi invece un consiglio ai consumatori è quello di non metterci una pietra sopra, di andare avanti eventualmente anche con la mediazione civile, che non è una causa ma consente la possibilità di ottenere dei rimborsi. Però mi sembra, insomma, che Poste Vita voglia risolvere pacificamente tutti questi casi. Speriamo che la disciplina legislativa che sta arrivando sia più chiara, e su questo tema noi comunque ci torneremo e vigileremo. A tutti, buona giornata, domani.